piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Tutti gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Ecco, mi sembra che questa è la sintesi di tutto quello che vi dirò da qui alla fine della trasmissione e vi continuerò a dire per varie volte nelle settimane che separeranno oggi dal 2 aprile. Il 2 aprile, lo sapete, è la giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo. Quest'anno non pensavo maniera migliore per ricordare che esistono cervelli diversi che quello di chiedere al mio pubblico, al pubblico della radio, di scartabellare nei loro armadi, nei loro cassettoni, nei loro cassetti e trovare tutte le testimonianze di cervelli ribelli che hanno a casa loro. Cosa significa? Significa che abbiamo deciso di fare un'asta, una grande asta in cui le persone, se vorranno, potranno contribuire. Contribuiranno grandi collezionisti di oggetti singolari, di stranezze, raccoglitori di cose preziose che vengono da tutto il mondo. C'è già un collezionista di dinosauri, una persona che ha le tute degli astronauti delle missioni sulla Luna, oggetti incredibili che stanno già classificando per metterli all'asta. Sì, perché vogliamo dimostrare che dietro gli oggetti sono delle storie, e più gli oggetti sono storie, più le storie sono singolari, e più le storie sono singolari, più racconto le persone che hanno modi di vedere, di pensare, di concepire l'esistenza singolare, diversa, particolare, preziosa. Ogni cervello diverso è un'opera d'arte e noi le opere d'arte che avete a casa vostra vogliamo aiutarvi a metterle all'asta. Le metterete all'asta se un gruppo di esperti le giudicherà meritevoli di essere messe in un'asta di livello. Nel caso farete voi il prezzo e le opere saranno vendute al miglior offerente. Parte di questa vendita andrà a un progetto su cui sto lavorando, per creare proprio un atelier d'arte in cui lavoreranno artisti con cervelli diversi. Andiamo per punti. Cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo innanzitutto di dare un'occhiata alla pagina di Radio 24, vedrete già il banner che vi lancia a un sito. Il sito si chiama asta.cervelliribelli.it, lì ci sono tutte le istruzioni. Voi lì troverete una form in cui potrete mandare delle foto, potete mandare delle indicazioni di quelli che sono gli oggetti ribelli che avete a casa. Cosa vi chiedo? Adesso ve lo dirò. Chiedo, avete, non so, collezioni che magari non avete mai raccontato a nessuno, di cose improbabili. Avete ereditato oggetti di cui non sapete bene quale sia la destinazione d'uso, strani, singolari. Avete delle opere fatte da artisti che hanno la fama di essere matti. Avete qualcosa che appartiene ai vostri predecessori, ai vostri nonni, ai vostri zii, che tenete in casa come la stranezza di famiglia? Beh, è il momento di raccontarcela. A me interessa per una ragione soltanto precipua. Dietro ogni oggetto c'è una storia. Voglio raccontare delle storie raccontando degli oggetti. Intanto cominciate a chiamare questa mattina all'800240024, cominciate a raccontarmi quello che secondo voi avete in casa che sarebbe meritorio di entrare in un'asta di oggetti folli, l'asta degli oggetti ribelli. Intanto che presento qualche ospite, perché oggi mi faccio aiutare dalle persone che hanno le competenze per fare questo tipo di asta. Innanzitutto Alessandro Ferrada, qui accanto a me, che è un gallerista, collabora con la casa d'aste Cambi, la casa d'aste che sta organizzando questo tipo di asta. A chi facciamo riferimento, Alessandro, pensando a quest'asta? Abbiamo pensato a far riferimento a tutti quelli che saranno interessati a raccontare le loro storie, che hanno degli oggetti, delle cose meravigliose, delle cose strane, e ci vorranno raccontare di questi oggetti. Facciamo un esempio, tu di cosa ti occupi? Tu sei una persona che colleziona oggetti d'arte, vende oggetti d'arte, in qualche maniera mette a disposizione arte strana. Le cose strane che hai, diciamo, nel tuo repertorio che potrebbero dare un'indicazione? Bene, noi ci occupiamo attraverso la galleria e poi collaboriamo giusto con le case d'aste tipo Cambi nella costruzione di quelle che sono Wunderkammer, cioè delle stanze di meraviglie. Partiamo dalla paleontologia, ci occupiamo nello specifico di fossili, di dinosauri, di oggetti strani, memorabilie, e andiamo fino ad esempio allo spazio. Vi presenteremo degli oggetti che hanno viaggiato nello spazio e cose così, stranezze. In quest'asta, ad esempio, vi do già un'anticipazione. Con Gianluca abbiamo trovato dei prototipi della Apple. Sì, avrete la possibilità di vedere il biglietto da visita originale di Steve Jobs, così come un prototipo di un GS4, un computer. La prima volta che si vede queste cose, che si vedono queste cose, e potranno essere messe in asta. Chiediamo la collaborazione di tutti nel presentare e raccontare la loro storia. Poi, se riterrete e riterremo assieme di poterli mettere nel nostro catalogo, che ripeto verrà pubblicato verso la fine di marzo, presentato il 2 aprile e poi l'asta sarà il 7 aprile nella casa d'aste Cambi a Milano, bene, valuteremo e vedremo cose meravigliose. Ci aspettiamo molto. Allora, 800 24 0024, cominciate intanto a chiamare così random, senza porvi grossi problemi, per quell'oggetto che avete in casa, che avete davanti, a cui attribuite comunque il senso di stranezza, di originalità, e raccontare la storia che è dietro quell'oggetto. Noi sulle Wunderkammer abbiamo fatto già trasmissioni e già c'erano ascoltatori che raccontavano delle loro storie. Ne facciamo sentire una. Abbiamo incontrato il signor Gaspare Vella, postino in pensione, che ci ha aperto le porte di casa sua per mostrarci la sua collezione di ditali da sarto. Negli anni l'appassionato pensionato è riuscito a raccoglierne oltre 120. E mi sono messo piano piano a collezionare questi ditali, perché io prima la mia passione era il sarto e usavo il ditale. Dopo sono andato a fare il portalettere e questa passione mi è rimasta come... Questa era una trasmissione dedicata alle capsule del tempo, anche lì cercavamo oggetti strani. Questo era andato a casa di un signore che, facendo il sarto, ha collezionato ditali. Aveva una collezione unica di ditali. Vedrete che valore ha. Beh, dentro ognuno di quei ditali c'è stato un dito. Quel ditale ha contribuito a una persona che non sanguinasse nel compiere un'operazione tipica della costruzione, della creazione del sarto. Il sarto è una persona che può fare anche delle opere d'arte. Da quei ditali si risaliva appunto alla storia di una vita con l'ago in mano, con le forbici in mano a costruire abiti. Noi abbiamo detto che l'aspetto artistico legato alla follia, alla stranezza, alla singolarità è un aspetto molto importante. Fra le persone che ci aiuteranno poi a classificare e a valutare gli oggetti che voi ci segnalerete, perché molti avranno dei quadri, molti avranno qualcosa che ha un valore artistico, un valore storico, abbiamo Tiziano Panconi, che è uno storico, un curatore d'arte di fama internazionale, che ci può dare intanto un'idea, Tiziano, di cos'è la stranezza, la follia, la singolarità, il cervello ribelle legato all'arte. Gli unici che possono dire di essere matti sono gli artisti. Ma sì, anche perché l'arte si muove in un luogo per antonomasia che è senza perimetri, quindi nell'arte vale tutto e il contrario di tutto. Tant'è che in questo spazio hanno trovato ospitalità menti brillantissime, se non geniali. Mi viene in mente fra tutte quella di Leonardo da Vinci, che da piccolo si divertiva con lo zio Francesco a sbudellare le lucertole per studiarne l'anatomia. E lui, che era, diciamo, un figlio illegittimo, che era un diverso, ebbe un processo a Firenze negli anni 70 del 400 per sodomia, poi fu assolto, insomma. Però ecco, fu accolto tra l'altro in un contesto favorevole, cioè da un altro genio che era il Verrocchio, e in quella bottega dove c'era un'assoluta libertà di visione, dove si faceva dove c'era un approccio diverso da quello che abbiamo adesso nelle scuole e università, cioè le cose si imparavano facendole, poi si studiavano. Ecco, in questa bottega del Verrocchio, che era un altro genio, c'erano per esempio altri geni, quindi avevamo Perugino, Botticelli, Signorelli, Della Gatta, Ghirlandaio, eccetera, eccetera. Ecco, Leonardo per esempio è un esempio assoluto di inconcludenza. Leonardo non ha mai finito niente, è stato per quasi 20 anni a Milano, è arrivato nel 1480 e è venuto via nel 1499, e in quasi 20 anni ha fatto soltanto 5 opere. Perché raccontano gli allievi, per esempio Salai, che era questo ragazzino con cui poi si dice lui ha avuto anche una storia sentimentale, e lui si metteva davanti per esempio alla Sacra Cena, la guardava, dava 2 pennellate, poi vedeva una mosca, la rincorreva, l'osservava, quando si posava la guardava, l'osservava, vedeva che per esempio le zampe posteriori fungevano da timone. Si inventava una macchina. E poi ripartiva per il suo sogno, per la sua visione, tornava nel suo studio, guardava questa macchina, questi progetti, e lasciava lì la Sacra Cena. Tant'è che gli allievi a un certo punto dicevano: maestro, ma qui bisogna mangiare, non abbiamo più soldi per comprare il cibo, bisogna che i committenti ci paghino. E allora ricominciava, però con un po' come l'ape che passa di fiore in fiore, ma sostanzialmente senza proprio una definizione concreta di quello che abbiamo. Una prima ascoltatrice, Barbara, buongiorno. Buongiorno. Lei che tipo di collezione ha, che potrebbe mettere a disposizione comunque dell'asta dei cervelli ribelli? Per me hanno molto valore i miei pezzi, sono crani, io colleziono crani. E dove li prende i crani? Li prendo alcuni proprio nel bosco, cercandoli. Ma crani, teste umane? No, umano purtroppo mi manca. Crani, lo dica, lo specifico, io non so, crani di animali. Principalmente di mammiferi la collezione, però anche altre cose. Quanti ne ha lei? Più di 50. La classificati, allora, guardi Barbara, una collezionista di crani, lei va in giro per boschi, per foreste, quando trova un bello scheletrino di un animale morto si prende il cranio soltanto, sì. Lo scarnifica, lo pulisce e lo mette in esposizione. Sì. E cosa le raccontano questi crani, secondo lei? Cerca di capire e comprendere i pensieri dell'animale che sono passati nel momento magari in cui il cacciatore gli ha sparato, la fiera lo ha addentato o vedeva gli ultimi istanti nella sua, e si apriva il tunnel di luce verso le verdi praterie. Mi piace l'osso, la perfezione dell'osso. Qual è il cranio che le piace di più? Quella è la cosa che mi piace di più. Ma quale di questi crani, qual è il suo preferito? Prego? Il suo preferito di questi crani? Il mio preferito è una cavalla, ci sono legata perché ci ho studiato per fare un esame di osteologia veterinaria e quindi ci sono... È il cranio di una cavalla, che per lei... Allora guardi Barbara, prendiamo lei come esempio, lei fotografi i suoi crani, racconti velocemente la storia, lo spedisca, andrà nel sito di asta.cervelliribelli.it e lei in qualche maniera avrà forse possibilità, lo osserveranno i nostri esperti, Ferrada che ha parlato addirittura di dinosauri interi, quindi probabilmente però dal dinosauro alla cavalla della signora Barbara, che in sé ha un valore storico, può passarci comunque un momento di riflessione. Io ho in studio una persona che è stato il primo ascoltatore che è in qualche maniera reagito alla nostra chiamata, che è l'avvocato Paolo Mereo, che è venuto anche lui questa mattina con il suo oggetto straordinario che vuole proporci. Avvocato Mereo, allora, cosa porta? Allora, È un ricordo di famiglia, abbiamo un ricordo di questa tragedia che è successa tanti anni fa. Nel 1940 viene abbattuto Italo Balbo dal fuoco amico. Il nonno di mia moglie in Africa, a Tobruk, sì. Il nonno di mia moglie comandava quella piazza come artigliere. Sicuramente non è lui che ha sparato, ma comunque lui è tra i primissimi che arrivano sul campo e raccoglie una parte dell'aereo e, ohimè, anche una parte di Italo Balbo, che conserva in formalina. Da allora noi la tiene gelosamente ed è pervenuta a mia moglie dopo i soliti passaggi. Allora, descrivo l'oggetto, ce l'ho qui sulla mia scrivania, è una piccola scatola di cartone, diciamo 10x10, contiene uno scritto autografo, la stanno osservando gli esperti della casa d'aste Cambi, uno scritto autografo del nonno della moglie dell'avvocato Mereo, dove Verga in un foglio di carta a quadretti, datato sicuramente 1940 l'anno, qui dice: questo è un parte dell'aereo e del corpo del comandante Italo Balbo caduto a Tobruk, e mette il giorno esatto in cui è caduto a Tobruk. C'è un piccolo contenitore che contiene un liquido oleoso, penso sia formaldeide, in cui c'è un pezzo di non sa bene cosa, materiale organico, cartilagine, un pezzetto di aereo. Ora noi sottoporremo, Alessandro Ferrada, questo potrebbe entrare nel nostro catalogo? C'è qualche remora sul fatto che contiene comunque, o si pensa che contenga, una parte umana? Sì, sicuramente la storia è interessante. Dovremmo andare a verificare, ci dovremmo far aiutare con qualche esperto, vedremo di trovarlo, per capire quanto sia questa una reliquia e quanto sia una... Insomma, ci sono delle leggi che tutelano la pietas dei morti, quindi insomma dovremo andare a vedere. Allora, sicuramente il valore storico è altissimo. Noi ci fermiamo un istante, mi sembra che comunque come case history c'è tutta. L'avvocato Mereo ha portato qualcosa che in famiglia conservano perlomeno da 70 anni. È lì, la moglie lo tiene in un cassetto, si sa quello che è il ricordo del nonno, il ricordo storico del nonno che ha fatto la guerra, che avrà raccontato ai nipotini per anni: io ho i pezzi di Italo Balbo, dell'aereo di Italo Balbo, ho visto la storia, l'ho visto mentre lo abbattevano, cadevano e via dicendo. Ci fermiamo un istante, noi sentiremo un esperto, già mi è venuto in mente la persona, fra qualche istante, e vedremo se questo può essere il primo oggetto che fa parte della collezione dei cervelli ribelli. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Melog. Allora, per dare un contesto ufficiale a questa nostra prima scoperta, che è la reliquia, il reperto, il ricordo del nonno dell'avvocato Paolo Mereo riguardo a la fine di Italo Balbo, ho pensato di coinvolgere una persona esperta che può darci qualche indicazione come comportarci dalla delicatezza alla materia. Abbiamo chiamato un ospite amico e ricorrente, che è Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, tu hai seguito, alla radio, la questione della reliquia dell'aereo e anche del corpo di Italo Balbo. Secondo te come ci possiamo comportare? Possiamo metterla nel catalogo della nostra mostra? Allora, guarda, la nostra asta, scusami. Sì. Secondo me si tratta a tutti gli effetti di un cimelio storico, come tanti che ce n'ho anch'io nel mio museo. Io ho ampolle di sangue, vertebre di condannati a morte, cioè sono degli oggetti che in qualche maniera venivano conservati e classificati tra 800 e i primi del Novecento. Quindi si tratta a tutti gli effetti di un documento storico. Ora bisogna valutare dove inizia il documento storico e dove c'è la pietas rispetto al defunto. Allora, avvocato Paolo Mereo, lei mi conferma che fa parte comunque di un'eredità avuta dal vostro parente? Sì, sì, sì, è sempre stata in casa da decenni. C'è una memoria, diciamo, storica di tradizione reale, orale, in cui il nonno ha parlato con una nipote, gli ha detto, oltre quello che ha scritto in quel piccolo... Beh, il nonno era uno studioso taciturno, però sicuramente qualche cosa raccontato di essere stato sul campo e di aver preso queste cose. Allora, le ha acquistate lui. Marco Pizzo, cosa consiglia di fare all'avvocato Mereo e a noi? Io consiglierei di muoversi in questo modo. Allora, da un anno oppure di meno, all'archivio centrale dello Stato è stato versato tutto l'archivio di Balbo, cioè i suoi documenti, i suoi cimeli, i suoi oggetti, tutto quanto. È stato recentemente catalogato, è stato pubblicato un catalogo, quindi io la prima cosa che farei è direi: benissimo, tu, Archivio Centrale dello Stato, che conservi non solo i documenti di Balbo, ma anche i suoi cimeli, i suoi oggetti personali, sei interessato a questo che è un cimelio del corpo di tradizione risorgimentale? Punto interrogativo, perché in qualche maniera fa riferimento a quella che è invece una cultura diffusa della conservazione di quelli che vengono considerate delle personalità di rilievo nella storia del Novecento. Al di là del giudizio personale che poi uno può fare su Balbo, che probabilmente è stato anche abbattuto da Fuoco Amico per motivi di rivalità. C'è questa vexata questio mai chiusa. Ma diciamo più che vexata, è una cosa quasi certificata. Quindi comunque è un documento storico e io farei questa specifica richiesta a quello che è l'ente, Archivio Centrale dello Stato, che in questo momento conserva la memoria storico-documentaria di Balbo. E noi possiamo metterla nel catalogo della nostra asta? Io farei una domanda all'Archivio Centrale dello Stato e contemporaneamente lo metterei comunque all'asta. Grazie Marco Pizzo, alla prossima. Alla prossima. Ecco, abbiamo sentito da Marco Pizzo quella che è una procedura. Non eravamo pronti ad affrontare subito, tra le cose straordinarie, i cervelli ribelli, il problema di un reperto reale del corpo, di comunque un personaggio storico, al di là dei giudizi della storia. Allora, ricordo ancora, noi stiamo lanciando una collaborazione di Radio 24 a questa nostra iniziativa. Noi faremo un'asta particolare, un'asta di oggetti fuori dall'ordinario, a cui parteciperanno grandi collezionisti di tutto il mondo portando cose strane. Il senso proprio è mettere all'asta oggetti fuori dall'ordinario, straordinari. Perché lo facciamo? Vogliamo dimostrare che in realtà dietro ogni storia fuori dall'ordinario c'è comunque la possibilità di rappresentarla anche concretamente con degli oggetti. Quest'asta avverrà ai primi di aprile, dal 2 aprile al 7 aprile sarà presentata alla Casa d'Aste Campica, una casa d'aste di fama internazionale. In questo caso andremo nella loro sede di Brera a Milano, metteremo all'asta questi oggetti. Vogliamo allargare al pubblico di Radio 24 la possibilità di portare anche loro collezioni. Voi potete mandare, come stanno già facendo molti ascoltatori, come ha fatto l'avvocato Mereu, di cui abbiamo sentito la storia, al sito asta.cervelliribelli.it, troverete anche tutto sul sito di Radio 24, le foto del vostro oggetto, la storia del vostro oggetto. La casa d'aste Cambi ve lo valuterà per quella che può essere una base d'asta plausibile e sarà messo all'asta. Il provento d'asta sarà vostro, nessun problema. Venderete delle cose vostre, le metterete in un contesto fantastico, entreranno in un catalogo importante. 800240024. Jacopo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei, Jacopo, ha già mandato le foto del suo oggetto, vedo, a asta.cervelliribelli.it. Sì. Di cosa si tratta? Io lo vedo, ma lei lo descriva per gli ascoltatori. Sì, si tratta di una vecchia etichettatrice, facendo delle ricerche viene riportata, ho trovato che viene chiamato come Marker, è un'etichettatrice arcaica che serviva per creare delle targhe su legno e su plastica. E l'ho trovata appena fuori da un vivaio abbandonato e aveva appunto questo scopo di etichettare tutte e segnare tutte le varie piante che erano presenti. Più o meno che risale agli anni 30, mi sembra di capire, sì, dalla foto. Sì, sì, sì, sì. L'azienda, appunto facendo delle ricerche, ho visto che è nata negli anni 30, però purtroppo non ci sono poi all'interno dell'oggetto nessun riferimento all'anno. C'è una matricola, volendo si potrebbe fare ricerche più approfondite. Se è il momento di farla, tiene a casa sua come oggetto singolare da tenere in casa? Sì, al momento si trova nel mio terrazzo e appena l'ho vista è nato. È bella grande comunque, un'etichettatrice. È molto grande, è una cosa molto arcaica, infatti. Diciamo che è una specie di mobiletto, di comodino, sì, color verde, verde chiaro, verde con quei verde, sì, sì, delle macchine industriali proprio di quell'epoca. C'è un grande disco con tutte le lettere e si presuppone, tirando una leva, si potesse etichettare. Alessandro Ferrada, gallerista che collabora alla Casa d'Aste Cambi, ha un'idea di quale potrebbe essere un'ipotetica base d'asta per questo oggetto? Beh, il valore sicuramente non è alto. Il valore che si danno agli oggetti veramente viene dato proprio dalla storia, no? E il prezzo da cosa viene dato, così come quando si fa il prezzo per ogni cosa. Dal costo, dalla valutazione che le persone, dalla valutazione che danno al costo di non avere quell'oggetto. Di toglierselo di casa. No, voglio dire, io voglio questa cosa e il costo che pagherei a non averla è più alto di quello che pagherò. Cioè, il costo di rinunciarci. Questa è anche un po' la dinamica delle aste, no? Ci sono, abbiamo visto cose che sono partite a poche centinaia di euro e poi sono salite in modo impressionante. Dipende anche dalla persona che sta lì all'asta, certo, a quale magari è un pezzo importante per la nostra collezione, non possiamo sapere. Certo. Lei, Jacopo, ha un'ipotesi di quanto costerebbe separarsi da questo oggetto per lei? No, no, anche perché mi sono subito affascinato a questo oggetto perché l'ho utilizzato per creare Escape Room, quindi diciamo ha un diciamo l'ho fatto mio, l'ho plasmato e sistemato affinché possa essere utilizzato per i miei fini, quindi sinceramente non saprei. Lei ha già dato un'attribuzione impropria a questo oggetto. Sì. Va bene, io volevo però sentire, visto che voglio allargare la fetta delle possibilità che hanno i nostri ascoltatori, molti hanno a casa opere d'arte, che possono essere delle croste, possono essere delle cose che ha dipinto la nonna, o magari quel tal pittore, quel tal artista ha dato in eredità, in regalo, in dono, l'ha acquistato un nonno, che molte volte non si sa il vero valore, si dà un valore d'affezione. Tiziano Panconi, che ha una vasta esperienza anche nella valutazione di opere d'arte molto importanti, è mai esistito, esiste nei repertori che lei ha modo di esaminare, nei reperti ha modo di esaminare, la possibilità che qualcosa a cui non si ha nessun valore, in realtà anche un grosso valore economico? Ma direi che è un fatto abbastanza... Cioè, le case degli italiani, possono esserci ancora delle cose che hanno un valore? Ma le case degli italiani sono senz'altro degli scrigni segreti ricolmi di tesori, perché spesso i tesori sono stati tramandati di padre in figlio e se ne è persa la memoria e la traccia storica. Quindi molto spesso le persone hanno degli oggetti talvolta di valore o addirittura inestimabili senza saperlo. E questo è il caso, per esempio, di una signora francese che qualche mese fa si è rivolta a una casa d'aste locale perché doveva traslocare, andare a abitare in una casa più piccola, se non piuttosto anziana, e quindi doveva disfarsi di alcuni mobili, di alcuni dipinti che, come si dice, ricrescevano nell'abitazione dove sarebbe dovuta andare. E quindi ha chiamato gli esperti di questa casa d'aste e ha sottoposto a loro una piccola icona che teneva in cucina, una tavoletta a fondo oro 25x20 circa. Lei cosa pensava fosse? Cioè, niente di particolare. Ma lei pensava fosse la classica icona bizantina, ottocentesca, e questo esperto molto avveduto ha guardato bene questo dipinto. Il soggetto era il Cristo deriso, che preparato questo esperto sapeva che era un'opera perduta di Cenni di Pepo, detto il Cimabue. Teniamo presente che Vasari disse che il Cimabue fu il primo che si discostò dalla maniera goffa e ordinaria del tempo, e quindi praticamente lo censisce come fu il maestro di Giotto, maestro di Giotto, come diciamo il maestro dell'arte moderna, cioè colui che dette il via all'arte moderna per come noi la intendiamo. Qual è il valore di quest'opera? La signora, ecco, la signora pensava appunto a un'opera di esiguo valore, invece ha realizzato in asta 24 milioni di euro più diritti d'asta, quindi circa 30 milioni di euro. Ma la cosa straordinaria sono poi i fatti che sono succeduti dopo la vendita, perché la signora nel frattempo ha ben pensato di morire e quindi ha lasciato questo credito nei confronti della casa d'aste ai figli, ma lo Stato francese nel contempo ha disdetto la vendita e quindi ha abrogato a sé il bene, e i due collezionisti cileni che attraverso un noto mercante di origine italiana avevano comprato questo dipinto non hanno potuto ritirare l'opera, che adesso andrà invece allo Stato francese. Quindi nessuno ha tirato fuori una lira o un franco, no. E l'opera di Cimabue è andata allo Stato francese. Ci fermiamo ancora un istante. Log. Anni fa, ristrutturando casa, che era una casa dei miei tresavoli di mia mamma, inizi del 600, togliendo un sasso da un muro, ristrutturando il tetto, è uscito un pentolino in terracotta pieno di monete d'oro, marenghi fiorini, e c'erano monete in argento. All'interno c'era una pergamena dove erano arrotolate queste monete e c'era scritto da questo tresavolo di mia mamma che lasciava queste monete, questi averi, ai figli dei figli del seno materno. Questo ascoltatore è andata meglio, ha trovato il classico forziere con i marenghi d'oro, ho detto, in tutte le case degli italiani ci sono marenghi d'oro, però cominciate a guardare con attenzione le cose a cui non avete dato magari grande valore, soprattutto le cose caricate di una storia, perché a me poi in realtà più che gli oggetti che saranno messi all'asta, se voi vorrete, a me interessa le storie attaccate a questi oggetti. Devo dire, mi corregge Tiziano Panconi, lo Stato francese l'opera di Cimabue la pagherà, la pagherà. Ecco, diciamo, però c'ha il diritto di prelazione ed è roba sua prima degli altri. Sì, assolutamente, una legge diversa a quella italiana che invece si muove in maniera insomma differente. Lo Stato francese quindi rivendica lo Stato, l'interesse storico-artistico nazionale, quindi esercita il diritto di prelazione e ha 6 mesi, mi pare, per pagare l'opera alla casa d'aste e quindi destinarla a uno dei suoi musei. Allora, 800 24 00 24 per segnalare gli oggetti che avete a casa. Ricordo asta.cervelliribelli.it è il sito in cui potete mandare le foto e la descrizione dell'oggetto e la vostra volontà di metterlo all'asta. Noi lo faremo valutare agli esperti della casa d'aste Cambi. Ricordo anche che molti mi stanno segnalando, non è che facciamo i robbi vecchi, dobbiamo prendere, uno mi dice c'ho delle vecchie sedie di mia nonna, ho capito, non facciamo esattamente questo, siamo oggetti che abbiano un valore, che abbiano in qualche maniera una storia da raccontare, una loro unicità, cioè essere il segno della diversità dietro questi oggetti, sennò si fa i robbi vecchi, non si fanno le aste di oggetti che devono avere una storia. Onofre, vediamo se siamo capiti. Onofre, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti. Cosa c'ha lei? Ascoltando la sua. Io voglio parlare riguardo a 2 oggetti che mi sono rimasti di una persona, mia amica cara, che adesso non c'è più e che rispecchia una faccenda accaduta a Milano in una zona che si chiamava la Cascina Rosa. Ma che è successo? Lo racconti velocemente, che stiamo per chiudere. La Cascina Rosa, in questa Cascina Rosa c'era un fabbro, questo fabbro si chiamava Giuanini. E Giuanini era una bravissima persona, un uomo splendido, che sapeva fare il fabbro in modo eccezionale. In di che anni si parla? Di che anni si parla? Onofre, di che anni si parla? Ma sto parlando degli anni 60-50. Quindi è recente. Cioè, questo fabbro, secondo lei, è una persona stimabile. Lei che oggetti ha di questo fabbro? Questo oggetto, c'è un soldatino di ferro. È un lapadario. Ma il soldo, quello a me non me ne importa niente di mettere questa roba qui, per se me la volete bene, se no niente. Ma il fatto è che Giovanin era una persona tacita, che non parlava molto, e lui, siccome aveva la moglie che parlava assai, gli ha detto una martellata in testa, lo ammazzò. In galera. Quindi cioè, aspetta, Onofre. Lui era bravo a fare il fabbro, sì. Faceva i soldatini, faceva gli oggettini. Fermo, c'è la storia dietro. Il fabbro taciturno che abitava nella Casina Rosa era una persona brava, non dava fastidio a nessuno, non parlava con nessuno e costruiva i suoi oggetti di ferro battuto. A un certo punto venne fuori questa storia, la moglie parlava un po' troppo e lui la uccise con una martellata. L'ha uccisa con una martellata, la moglie. Sì, però può passare che fosse poi una persona brava, uno che ammazza la moglie a martellata. Ma era un angelo di uomo. Sarà un diavolo che faccia una strage, mi scusi. Ma perché lei ha questo ricordo così positivo di uno che ha ammazzato la moglie a martellate? No, io lo trovo positivo perché lui che ho conosciuto. Ah, l'ha conosciuto lei? E per becco! E quindi lui carcerato, giustamente condannato per uxoricidio, continuava a fare i suoi San Vittore. E a San Vittore continuava a fare i soldatini di ferro. E per passare il tempo faceva i soldatini, ma non solo i soldatini, faceva gli animali. Sì, ma cosa gli hanno dato? Scusi, ai carcerati non è che gli danno una fucina e una fiamma per poter fare il ferro, anche lì faceva. Ma le dico che faceva sui soldatini, uno di questi ce l'ho io ancora adesso. Quindi lei ci mandi comunque, Onofrio, la foto di questo soldatino, perché potrebbe esserci una storia dietro. Faremo delle indagini su questo personaggio che sarà passato alla cronaca nera del tempo, capito? E vedremo in qualche maniera se possibile avere, faremo altre trasmissioni, vi daremo altre categorie. Oggi abbiamo toccato comunque la categoria dei ricordi legati comunque a eventi tragici. La prima cosa che ha colpito il pubblico è quella dei i reperti legati comunque a occasioni di morte, dalla morte di Italo Balbo alla morte della povera signora che ha avuto la sfortuna di essere moglie di un fabbro, tanto brava persona, tanto silenzioso, ma un giorno il martello gli è sfuggito all'incudine e finito nella testa della signora. Non c'è niente da ridere, ma anche qui forse c'è dietro una storia. 800 24 0024, chiamate ancora e guardate a asta.cervelliribelli.it, lì potete mandare intanto le vostre foto. Ci risentiremo presto.